Dark side, fotto col lato scuro, quindi andrò all'inferno. Bomber con un fumetto nel lato sinistro interno. In giro da solo, solamente con mio fratello. Vorresti fottere la gang, sei solamente un poveretto. Haha, vi rido in faccia mentre rollo erba accendo. Dark, dark, triplo 7 alla gang che rappresento. Sto correndo verso i soldi come se scadesse il tempo. Scorrono le ore sul mio GMT e non riesco a leggerle. Non accollarti il peso se non riesci a reggerlo. La tua ragazza si accolla, ti prego, vieni a riprenderla. Sono un alieno dallo spazio per questi terrestri. Fammi spazio quando passo, Dio chi mi calpesta i piedi. Se non parli di soldi è come se non ti sento. Non hai sentito della dark, mi sa che non ci senti. Chiamo Tony, trasforma uno stronzo in cibo. In verdura ora in stato vegetativo. Va bene così.